Ritorniamo dunque, ultimo stacco di questa puntata, dopo avervi sentito il nostro caro amico Ruoppolo, che però poi avremmo qui a Luzzi, perlomeno lo avremmo materialmente, fisicamente, telefonicamente, non lo so. Spariamoci l'ultima frase della Juventus, detta da Roberto Betto, che la Juventus è stata una delle ragioni della mia vita, amo questa squadra, questa società e questi colori. Betta che ti amo anch'io, e bisogna dunque fare i saluti finali dopo questa bella puntata, posso dire, di Talk, puntata abbastanza sentita. Devo ringraziare anche Emilio Mondalto, che è stato prezioso nel darci qualche suggerimento tecnico sulla carriera e sull'umanità di Marco Simoncelli. E bisogna sempre salutare tutti quelli che ci hanno seguito dalle case di cura e di riposo agli ospedali. Maria Quinta verrà ad una ad abbracciarvi con una giacca grigia improponibile. E vabbè, questi sono problemi poi di Maria Quinta, penso che deve andare al bagno meno. Ah, ecco, me l'ho dimenticato del nostro tassativo. Dunque, mi scuserà la presidentessa se lo dico solo ora, ma espleto la mia forma. Caseificio Roberti, caseificio Roberti, caseificio Roberti, caseificio Roberti. L'altro lo dirò dopo, perché 5 di fine non posso dirli. Sì, è le mille bolle blu di Carlo Rio. Andate dunque a Cavoni e compratevi saponini, altrimenti questo mi muore di fame. Saponini, no, vende proprio i saponi, e lui la chiama saponini. Così, se piccoli saponi di bellezza o di altro. No, andate veramente, ha fatto un nuovo negozio, credo che se è rimasto qualche dolce ve lo va pure. Non è una persona maligna, su questo non ci sono problemi. Dunque, i saluti abbiamo fatto, saluto anche Mario, Alessio, eccetera, eccetera, il gruppo dei fidelissimi. Ringrazio Nicola per la pazienza qua in cabina di console. Cosa dire? Prossima puntata, spero ritorni Alessio Piselli, e spero porti anche una ricetta leccata di dito esclusa. Saluto anche amici di Bagnini, spero ci stia ascoltando. Ah, è comparso, cioè magia della radio, compaiono le genti. Dunque, possiamo dire che è ora di andare a nanna, almeno per me, perché domani mattina mi devo svegliare presto. Noi vi lasciamo con una scenetta di Troisi, la scenetta del commissario, bella, divertente, appassionata, sempre prendendo dal mito della smorfia, e vi auguro una buona notte.